Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 minuti, caro Oscar. Ed è venerdì, però venerdì 13. Venerdì 13, mamma mia, santo Dio, no, già stamattina mi è successo un guaio, quindi adesso ho capito finalmente perché, venerdì 13, però è la Madonna di Fatima, 99 anni fa, ai tre pastorelli apparve su un leccio la Madonna, il terzo mistero, eccetera, eccetera, l'attentato al Papa e la conversione della Russia, insomma, lo sapete tutti, quindi un giorno di grande misticismo per i cattolici e tra gli altri santi che si ricordano, San Natale. Natale, anche se è Natale, ex vescovo di Milano, San Gemma, San Servazio, un'altra Sant'Agnese di Poitiers, stiamo scoprendo Sant'Agnese un po' come Santa Margherita, quella di mia moglie, la moglie del premier c'ha una santa praticamente al mese, e poi i sei martiri circensi di Casamale, mi piace perché sono sei martiri circensi, perché lavoravano nel circo, il circo all'epoca non era con gli animali, era un'altra cosa, era un po' ginnico e un po' insomma con i gladiatori, però insomma anche il cristianesimo ha i suoi martiri del circo. Perché oggi questo legame con la Chiesa, guarda che sono momenti bui, ricordati, capito? Momenti in cui suonano anche le campane a morto. In alcuni casi, come nella parrocchia di dove? Carovilli, Isernia, nel Molise, cui il parroco ha pensato bene di celebrare il funerale del matrimonio e della famiglia secondo natura tra uomo e donna. Caro mio, affisso il manifesto funebre e in più alcuni incuri a Roma, giungendo le mani e volgendo lo sguardo verso l'Altissimo misericordioso e potente implorano. E proprio in questo giorno il Papa deve aprire alle donne, diacono. Sì, è proprio, e infatti secondo me è una congiuntura astrale. Il biforcuto zampato demonio si avverte nello sfondo. Senti qua, padre Livio Fanzaga, direttore. Questo ritornamento all'attacco, possiamo dire, del maligno, che Satana oggi lavora soprattutto per distruggere le famiglie. Ma sai che cosa ho scoperto? Un ascoltatore me l'ha segnalato, l'ho postato su Twitter, dalla provincia di Como, il 5 per 1000 dei comaschi vanno soprattutto a Radio Maria, 1.600.000 euro. 1.600.000 euro. Bravi, perché se riescono. Padre Livio è un ottimo magnete da questo punto di vista. Ma io voglio, cari ascoltatori in ascolto, farvi riflettere su come in Curia Roma alcuni padri illuminati reagiscono a queste prime notizie del Papa che apre donne e diacono che vorrebbero sposare, battezzare, addirittura, titolo del Messaggero, curia impaurita, così si diventa protestanti. No, addirittura, no, protestanti no. Comunque qualcuno fa notare forse che erano le campane a festa, effettivamente, anche le campane a morto, ma io vorrei... Vabbè, avrei un po' scherzato, però a volte no. I toni sono un po' questi. I toni sono questi. Vorrei invece lanciare... Ma tu hai giurato sulla Costituzione o sul Vangelo? No, infatti, io non ho giurato né sulla Costituzione né sul Vangelo, non essendo ministro. Attento, ti devo ricordare che io e te abbiamo giurato a nostra moglie... Non ti dimenticare bene, questo, sennò sì. Torni a casa sono Totò. Quindi davanti a Dio, io in chiesa, quindi davanti a Dio. Sono Totò con la moglie, sono già tutti dimentichi. Esatto. Ecco. Però, cari comuni, cari sindaci, soprattutto i sindaci che fate obiezioni di coscienza, ho scoperto, dice Repubblica, che potrebbe costare fino a 700 euro fare l'unione civile in comune. Quindi meno autovelox e più unioni civili potrebbe essere un modo che per... Che pacchetto è conveniente, lo Stato fa soldi su tutto, del resto. Anche sulle unioni civili. E infatti... a Roma li ha fatti, come si dice, il Messaggero li faceva anche sui certificati anagrafici di morte, quindi sì. Matrimoni, morti, 5 euro a certificato si peccavano gli impiegati carte d'anagrafe. Sì, a volte 10, proprio quando, quando proprio volevano esagerare, 10 euro se volevi sveltire la pratica. No, quando il morto era di qualche giorno, quindi mandava cattivo odore, allora ci sono 10 euro. No, però sentite qui Renzi, secondo me Renzi, adesso entrando un po' in una questione un pochino, i toni un po' più seri, Renzi ieri a Porta a Bruno Vespa ha detto: io sono cattolico, ovviamente quando faccio politica la faccio da laico, cioè io ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Vespa, bisogna anche avere il coraggio di dire che se una cosa è giusta non ti devi preoccupare dei voti che perdi. Ma io dico, io per esempio ho fatto i salesiani, quindi si potrebbe dire, no? Ma una frase così, così ovvia, però anche bella se vuoi, cioè, cioè bisogna ribadirla da parte di un Presidente del Consiglio ogni giorno. Cioè io faccio, sono cattolico, ma quando faccio politica sono un laico, perché lo Stato è questo e ho giurato sulla Costituzione. Io penso che ci sono due elementi, questa tua secondo me molto giusta domanda. Da una parte c'è la tendenza di Renzi, che non so se sia proprio la più giusta, perché qualche volta lo porterà a mettere un piede in fallo, a voler sempre indicare un nemico preciso, ogni giorno un nemico. E quindi oggi sono i cattolici che li sentono. La seconda è che evidentemente però all'interno del PD questa, la forza del senso cattolico, sia interno nei propri gruppi parlamentari, sia poi nell'evidenza delle manifestazioni pubbliche, era evidentemente dopo anni e anni sottovalutata. Cioè pensavano di aver fatto passare un numero di anni sufficientemente elevato tra i Dico e tutto quello che non avevano, avevano promesso, non avevano fatto, a dire vabbè, li abbiamo convinti aspettando. E invece, come si vede, per una parte dura del mondo cattolico non è affatto così. E questa roba secondo me lui non la butta giù. Non la butta giù. Però io ribadisco la frase... è abbastanza, se volete, cioè mi colpisce un po' di più il Mario Adinolfi, no? Amico, grande amico Mario Adinolfi, ma senti qua Mario Adinolfi. C'è il male. Io penso sì, sono dei segnali di imbarbarimento dei nostri tempi, che questi siano segnali del male. Chi crede nella Chiesa cattolica, il male è Satana. Il male è Satana. E guarda che oggi, caro Oscar, Avvenire, Marco Tarquinio, il direttore, fa un breve commento proprio alla questione di ho che giurato però sulla Costituzione. È breve, ma a un certo punto dice: i cattolici, se si vendicano, non sono buoni, caro Matteo Renzi. Che, voglio dire, nello sposare la tesi che non bisogna, la manifesta con una certa evidenza che avverrà, ecco, che è il rischio molto elevato che avvenga. Questo è. Comunque, sentiamo i nostri ascoltatori che ne pensano all'800240024. Carlo ci chiama da Como. Buongiorno, Carlo. Buongiorno a lei, Giannino. Eccoci. Complimenti. Innanzitutto io non sono uno di quei donatori di quel 1.600.000, anche se chiamo da Como. Ah, giusto, effettivamente. Senta, sembrerà retorico, mi sembra quasi banale, ma mi chiedevo, in un momento così di crisi lavorativa, di problemi di pensioni, di pensionati che non riescono a comprare i farmaci per sopravvivere, come mai il governo si è prodigato tanto per queste unioni civili? Io adesso Oscar poi risponde. Io è un argomento che hanno molti, dire perché questo e non la crisi, l'economia, le difficoltà. Perché? Ma non è che un governo deve fare, o un Parlamento, una cosa alla volta. Non è che per approvare le unioni civili si è sospeso tutta la questione dell'economia, dei dossier in mano a Padoan, delle aziende, delle fabbriche che chiudono, del lavoro che c'è, il ministro Poletti lavorerà continuamente. No, Oscar, e invece c'è questa idea che siccome si è fatta una cosa, non si fa nient'altro. Governo può fare 100 cose contemporaneamente. Poi naturalmente c'è anche il libero campo dell'interpretazione politica. Leggo, mi limito a leggere un titolo, pagina 4 oggi della Stampa, che secondo me fotografa anche dal mio punto di vista, ma su questo, caro Carlo, ognuno può avere la sua opinione, però te lo leggo per vedere se ti convince, perché la Stampa dice: Renzi a caccia di voti a sinistra. E questa è l'interpretazione che dà, per la quale dice il PD aveva promesso una parte del suo elettorato, aveva promesso il matrimonio omosessuale, in parole povere, no? Dopodiché gli aveva promesso l'adozione, fatto mezza marcia indietro, però Renzi ha detto: noi stiamo perdendo troppi voti a sinistra, dobbiamo chiuderla per forza, per questo ha messo la fiducia, per chiudere questa vicenda, almeno delle unioni civili, sia pure senza stepchild adoption, e però con l'apertura per cui possono comunque i magistrati dire sì alle adozioni. Ecco, l'interpretazione di alcuni, ti ho proposto questa alla Stampa di Torino, è che serve per limitare possibili in vista dell'amministrazione fughe di voto a sinistra. Questa può essere un'interpretazione politica. E certo, può essere anche. Andrea Rimini da Fabio. Buongiorno Fabio. Ah, buongiorno, volevo soltanto portare la mia testimonianza, nel senso che prendo atto delle nuove disposizioni sulle unioni civili e quindi che accetto come cittadino e come persona, quindi nulla in contrario. Però volevo anche far presente che così anche l'orientamento che ha padre Livio, a mio avviso, riguardo i contenuti della cristianità, io li rivendico completamente, perché sono le nostre radici cristiane e mettere in discussione la nostra cristianità significa mettere in discussione anche un fatto storico. Ma nessuno la mette in discussione, infatti lei è libero di poter andare in chiesa tutti i giorni e insomma, di andare a messa. No, ma io credo che lui nel mettere in discussione dica. La mia è un po' una provocazione. No, cioè, nel senso certo, che come lui dire, dice, mettere in discussione che sia il fondamento, deve rimanere il nostro fondamento della nostra società e della nostra legge. Questo è quello che dice padre Livio, e credo anche il nostro ascoltatore. Ma per certi versi lo è, ma non il fondamento delle nostre leggi. Lo è, lo è, fratello Alessandro. Ma comunque Fabio, il cardinale Giannino quasi arrabbia. No, ma non vogliamo minimamente mancare di rispetto ai valori cristiani. Fabio, però, cioè, lei cosa vuol dire? Quindi è che anche le leggi dovrebbero rispecchiare? No, non sto dicendo questo assolutamente, no. Dico che il potere temporale alla sua collocazione, però sostanzialmente anche se un prete, un sacerdote che comunque è un giornalista, prende posizione evoca anche dei contenuti che possono essere condivisibili o meno, sostanzialmente non è che si può ironizzare su tutto, mi spiego. Abbiamo mancato un po' di rispetto a padre Livio Fanzaga, dice, un po' ironizzando un po' sulle cose in cui lui crede profondamente. Fabio, questa è un po' la critica che ci vuol fare, no? No, non voglio toccare la suscettibilità sua di nessuno. Dico no, non c'è problema. Però se prendono posizione, io credo che comunque possa essere ascoltato ed è la sua testimonianza. Se lui ritiene di parlare anche di una di argomenti forti che possono magari essere o meno condivisibili, comunque è un sacerdote e io lo ascolto. Eviterei sempre di portare, perché uno può avere o non avere delle convinzioni religiose ed è liberissimo, però ironizzare le dà fastidio, va bene, ma è stato chiarissimo, Fabio, no, per dare spazio anche agli altri ascoltatori, è stato chiarissimo. Andiamo a Livio, non Fanzaga, ma non è una battuta, Livio dalla provincia di Pavia, buongiorno Livio. Grazie, buongiorno, volevo porre questa domanda, poiché ora è proibito il matrimonio tra fratello e sorella, due fratelli possono costituire un'unione? Esplicitamente vietato tra consanguini, eccetera, no. Eccetera, quindi no. Mettiamo un limite anche all'immaginazione che siamo diventati, esatto, il regno della lussuria, ecco, cioè non proprio della libidine assoluta. Vorrei che ragionaste che rimaniamo un paese abbastanza civile. Esatto. Ricordiamo il 27esimo paese in Europa a fare questa cosa. Livio è soddisfatto di questa curiosità? Grazie. Sì, grazie a lei. Roberto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Due cose. La prima è che sì, voglio urtare la sensibilità di chi ascolta, nel senso che evviva lo Stato laico e forse dovremmo ritornare ad un'impostazione un pochino più napoleonica della prima ora. Dove si allontana un attimino la questione, cioè si lascia l'ambito prettamente religioso e dell'anima sì alla Chiesa o alle confessioni, ma tutto il resto deve essere precluso a una condizione alla parte clericale e alla parte religiosa, nel senso che un sacerdote, ogni volta che viene fuori una questione in ambito parlamentare, vediamo il nostro bellissimo cardinale che è stato pagato tra l'altro come vicario generale dei cappellani in Italia un bel po' di euro e fa le sue considerazioni pontificando eccetera eccetera, tutti quanti dicono ma però la Chiesa sì, vabbè, può entrare non è giusto che entri nel merito, però può dire la sua, va bene, d'accordo. Però se qualcuno si permette di fare delle considerazioni su questioni prettamente vaticane, allora c'è un po' lo stop, c'è il silenzio, c'è quant'altro. Questa è una cosa che mi fa incantare veramente. Ci sono i processi in Vaticano su Nunzio Fittipaldi che scrivono, invece di ringraziarli li processano, tanto per ricordare le cose come vanno. esatto, cioè è una questione un po' strana, sembra di stare sempre in sagrestia, cioè ma vede Roberto, no, ma il bello è che come i nostri ascoltatori Oscar e secondo me la nostra ricchezza siano così variegati, certo. No, abbiamo ascoltatori che magari Italia, no? che magari ci rimangono un po' male perché facciamo delle battute, insomma, sorridere non fa mai male. Nei confronti di padre Livio. Ma immagino che anche il parroco di Cavilli di come si chiama questo paese? Carovilli. Anche il parroco di Carovilli, che ha fatto affiggere quei manifesti, sì, mortuari, sì, cari ascoltatori, sì. Voglio sperare che scherzasse, perché se non scherzava è da ricoverare, Lorenzo D'Alecco, il manifesto mortuario. Lorenzo, buongiorno. Sì, ciao, io vi ascolto, anche se sono un po' incazzato con Giannino, Allora, il 9 di maggio si è dimenticato di ricordare il giorno della vittoria, vabbè, in Russia. Io allora abito vicino a padre Livio, noi siamo una famiglia che comunque lo sostiene, sì. E io sono stato anche un paio di anni fa a Lisbona per i cavoli miei e niente, io devo dire, cioè, vedo che nelle radio passa questo sentiment di conduttori praticamente tutti a favore dell'unione civile, anche io ho sentito un avvocato, donna che parlava qui, ospite. Guarda che Giannino ragazza qua ha fatto delle critiche, le ha scritte sul Messaggero, della legge. Io quello che ti voglio dire, Milan, che vi ascolto tutte le mattine, ok? È che comunque, guarda che la maggior parte della gente è contro le unioni civili, è contro i matrimoni gay. Qui si sta facendo passare un messaggio, ieri ho sentito questo avvocato che ha telefonato da Roma dicendo è un giorno difficile per gli italiani. No, la maggior parte degli italiani è contro le unioni civili, anzi ti dico di più, ho anche amici omosessuali, sì, che sono contro le unioni civili. Va bene, Lorenzo, okay. Insomma, gli italiani sono contro, questo è... Non so, parrebbe che i politici abbiano deciso, anche sulla base di sondaggi, che da molti anni direbbero il contrario. Tra l'altro subito si è proposta l'ipotesi di un referendum abrogativo, vedremo. Quindi che problema c'è? Comunque, cari ascoltatori, continuate a chiamarci, il tema è molto caldo come sentite. Noi però dovremo affrontare un altro titolo, questa volta della sera. Sì. I vescovi sono contrari a una battaglia nelle urne. Sì. Secondo voi, cari ascoltatori, fatica a venire a scrivere, non era perché così duro. Se i vescovi pensassero di vincere sarebbero contrari? Mm. Puntini, interrogativi. Probabilmente i vescovi sanno che perdono. Mm. Comunque, noi dopo la pubblicità continueremo su questo tema se volete, ma parleremo anche di un tema molto delicato. Sì. Succede in una scuola in Brianza, in Lombardia, scuola media, dove due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, per la verità, sono stati bocciati di fatto perché sono stati beccati a scambiarsi della marijuana, sì, in classe. Uno lo vendeva e l'altro lo comprava. Esatto. L'idea è... punizione troppo severa? Stiamo parlando di studenti di una classe di terza media, non ammessi all'esame di Stato, quindi per perderanno l'anno come sanzione. E studenti che hanno già una storia travagliata alle spalle. Sì. Il sindaco dice che sarà con noi, è esagerata come punizione, rischiamo di perderli questi ragazzi così. La scuola si difende dicendo, ma insomma la scuola deve lanciare anche dei segnali educativi. Sì, non solo sulla... quanto sono i voti per la materia, per così dire, esatto, ma anche sul complesso della personalità, ciò che è giusto e sbagliato. E avremo la vicepreside. Si confronteranno anche con il vostro parere tra poco. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. Allora, caro Oscar, sono le 8:42 minuti. E il demonio si è manifestato? Ancora no? No, per ora no, ma essendo venerdì 13... Può essere. Abbi fede, mi verrebbe da dire. Io spero che si manifesti su Radio 1, Radio 2, Radio 3, sui concorrenti. Va bene. Allora, vogliamo parlare di questa vicenda che è avvenuta a Giussano. Siamo in Lombardia, in provincia di Monza e Brianza, dove due ragazzi, siamo in terza media... due ragazzi, quindi 14 anni diciamo più o meno, hanno già perso un anno, credo, non perso so un quanti anno. Anni abbiano di preciso, ma un anno in più di sicuro. Esatto, sono stati di fatto bocciati perché non ammessi all'esame di Stato, in quanto sono stati pizzicati qualche giorno fa a uno lui a vendere marijuana e lei, quindi sono un ragazzo e una ragazza, ad acquistarla in classe. Decisione della scuola, del consiglio d'istituto, decisione che lo stesso consiglio d'istituto ha detto molto sofferta, molto tribolata e anche un po' criticata. Per esempio il sindaco Matteo Riva, che è con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. La giudica una esagerata come decisione. E io vi ringrazio perché è la prima volta che si confronta anche il sindaco, la scuola, cioè in un dibattito pubblico. Salutiamo la vicepreside della scuola media di Paina di Giussano, quindi la frazione di Giussano, la professoressa Monica Borriello. Buongiorno professoressa e grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno. Allora, decisione sofferta, però il dato di fatto è questo, cioè questi due ragazzi perdono l'anno per questo gesto, è così? È così e probabilmente il nostro primo pensiero non è stata la perdita dell'anno scolastico. Ma? Decisione sofferta per tutto quello che è stato vissuto in questi ultimi mesi per aiutare questi ragazzi. Pizzicati a vendere e comprare sembra quasi un gesto estemporaneo, una cosa accaduta per caso, la marachella. E invece? Purtroppo non è così. Non è così. Cioè, ci racconti lei allora come sono andati? Sì, esatto, erano due ragazzi purtroppo con una situazione familiare problematica alle spalle, che non è il caso ovviamente di approfondire, di indagare. Proprio per questo erano affidati ai servizi sociali e la scuola avrebbe dovuto lavorare e collaborare con gli enti del territorio. Abbiamo chiesto aiuto ripetutamente durante tutto l'anno perché la situazione degenerava. Uh-huh. E noi vogliamo bene i nostri ragazzi tutti e ci siamo resi conto che il loro problema in questo momento era un altro, non era la scuola, c'era bisogno di un sostegno più forte, abbiamo gridato invano aiuto pertanto e non siamo stati ascoltati per tanto tempo. Sì. Però mi sembra di capire che, forse usare la parola accusa un po' troppo, ma la critica, diciamo, del sindaco e di chi dice che è stato un provvedimento troppo esagerato, è che così i ragazzi rischiano ulteriormente di perdersi, visto che ci ha raccontato che sono già due ragazzi con situazioni familiari non semplici. Ma noi proprio questo auguriamo, che non si perdano, perché il sindaco ha detto più di una volta che sono in carico ai servizi sociali. E non credo che il bene primario sia l'esame di licenza media in questo momento. Io ho sentito il sindaco che ovviamente augurava un futuro scolastico e lavorativo per questi ragazzi. Noi come scuola auguriamo innanzitutto un futuro a questi ragazzi, che sia un futuro costruito su basi solide, con l'aiuto degli adulti che in questo momento dovrebbero fare di più. La scuola si è spesa in tutti i modi. Ma dice il problema non è scolastico, il problema, esatto, non è eminentemente non scolastico. È scolastico, esatto. Sindaco, qui la questione investe proprio anche il comune, visto che sono già affidati ai servizi sociali. Che risponde lei a questo grido ripetuto? Sì. E poi dice la preside. Ma allora la preside fa capire anche un grido inascoltato. Inascoltato. Personalmente non sono d'accordo con quanto detto dalla vicepreside, perché io ho dichiarato, forse già anche in un'altra vostra trasmissione, che i rapporti con la scuola rispetto a questi ragazzi sono sempre stati positivi e ottimi, tanto che c'erano dei percorsi condivisi. Quindi non ritengo che il comune e i servizi sociali non abbiano fatto la loro parte, assolutamente, anche perché c'erano proprio dei progetti specifici che, giustamente, come dice la professoressa, forse non è il caso di raccontare, visto che si tratta di due ragazzi minori. Dal mio punto di vista invece la preoccupazione è proprio quella che questi ragazzi, che già si sono visti togliere tanto dalla vita, si stanno vedendo perdere e togliere anche un ulteriore anno. Quindi questi ragazzi il prossimo anno saranno con dei ragazzi, dei compagni di classe ancora più giovani e con maggiori difficoltà ancora a svolgere la terza media. Però ho sentito dire la vicepreside il problema principale non è tanto la licenza di terza media in questo momento, non è tanto quel diploma, non è tanto... Beh, però mi consenta, se noi impediamo a questi ragazzi di prendere questa terza media a 16 anni, se vogliono possono tranquillamente decidere di non frequentare più la scuola dell'obbligo. E questo significa che dei ragazzi che non hanno neanche una licenza di terza media, che possibilità lavorative hanno per il loro futuro? credo nessuna, visto che incontro quotidianamente persone con lauree che non stanno lavorando. Qua Oscar, la questione insomma è... Posso fare una domanda? Perché avevo a un certo punto creduto di capire, però non riesco mai ad avere elementi concreti, quindi può essere che mi sbagli, ma volevo fare una domanda alla vicepresidente. È vero, e se sì, in che cosa si trattava, di cosa si trattava? Che ci siano state ipotesi alternative precedenti a questa decisione che riguardavano i due ragazzi? Che tipo di altre misure erano state immaginate prima di arrivare a quella che poi è stata decisa? Noi abbiamo chiesto, allora, calcolando la situazione dei ragazzi che era problematica e l'uso di sostanze era per noi evidente, pur essendo profani, ci accorgiamo se dei ragazzini purtroppo fanno uso di sostanze, se comincia a girar voce che all'esterno della scuola dei ragazzini vendano, spacciano sostanze. Certo. Abbiamo inviato quantitativi enormi di segnalazioni ai servizi sociali affinché intervenissero con gli strumenti che loro hanno sicuramente, che devono avere, e queste le nostre non abbiamo ricevuto risposte. Che poi ci siano stati percorsi alternativi anche con altre strutture è vero, ma poi cosa succedeva a questi ragazzi fuori dalle 5 ore di scuola o dal percorso alternativo che in alcuni giorni si alternava? No, perché noi ne abbiamo parlato anche di recente, ti ricordi, caro Oscar, e abbiamo suscitato anche un putiferio, ci hanno scritto i genitori del Virgilio di Roma, esatto. Lì è un liceo, qui stiamo parlando di una scuola media. Ma cara vicepreside, si è parlato e si parla anche in tante scuole, il dibattito è aperto, se mandare le forze dell'ordine, se mandare i carabinieri anche, se mandare la polizia quando si hanno notizie di spaccio o di diffusione di droga all'interno delle scuole. Lei cosa ne pensa? Certo, cosa che abbiamo fatto. Allora, cioè, voi avete avvisato le forze dell'ordine? Le segnalazioni, quando ancora erano soltanto voci, quando c'erano le nostre impressioni, ma evidenti, sono state fatte alle forze dell'ordine, quindi oltre che avvisare i servizi sociali. E quando poi la situazione si è verificata a scuola, è stato per noi naturale avvisare le forze dell'ordine. Ricordiamoci che abbiamo, oltre questi due ragazzini, ce ne sono 450 e ce ne sono 20 compagni di classe di questi ragazzi che, dopo averli accolti quest'anno con una gioia e un entusiasmo enormi, hanno cominciato ad avere paura. E nonostante la paura hanno denunciato quel giorno. Non è semplice per un ragazzo di 14 anni denunciare quello che sta accadendo. Ecco, perché questo è un particolare interessante. Cioè, sono stati gli stessi compagni di classe, evidentemente, certo, lei dice, esasperati da una situazione, sì, a denunciare, sì, il fatto che ci fosse a denunciare il fatto. Io sono intervenuta in quel momento dopo la denuncia di questi 14 anni, evidentemente, a cui la scuola ha insegnato qualcosa, ha insegnato che esiste la legalità, che, per l'amor del cielo, non esistono ragazzi sbagliati, come ho detto da qualche parte, sembra quasi che la scuola abbia bollato qualcuno come un ragazzo sbagliato, no, esistono ragazzi che forse commettono degli errori, e a questi ragazzi forse bisogna dire talvolta dei no, bisogna far capire che esistono delle regole. La scuola non ha fallito, come ho letto su tanti giornali, e purtroppo i giornali fanno il loro mestiere, ci mancherebbe. Sì. Piace che determinate esternazioni forse vengano da organi istituzionali. Sì. La scuola non ha fallito, ha agito. Questo perché ognuno altrimenti poi difende il suo, no? Lei sta difendendo l'istituzione scolastica, sarebbe sciocco se io adesso mi mettessi a difendere una presunta che non è un'istituzione, ma è un servizio offerto, cioè quello dell'istruzione, quello dell'informazione. Il punto per chi fa informazione deve sintetizzare, però, è che in ogni caso, se stiamo parlando A di minori, B di minori con problemi, C di minori con problemi, e per questo affidati già ai servizi sociali, che in ogni caso la somma della parte offerta a servizi formativi pubblici nella scuola e parte di servizi pubblici sociali ottenga un effetto che questi due ragazzi continuano ad avere atteggiamenti oltre borderline, addirittura violano anche la legge, ma detto questo, non riescono ad andare avanti né nel percorso formativo scolastico né ad avere una matrice comportamentale accettabile per un proprio futuro, per un proprio futuro prima che per gli altri, beh, questo noi non possiamo sintetizzarlo come un fallimento, però sì. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Ma infatti io non accusavo la stampa, ecco. Mi piace che il fallimento venga dalle parole magari del sindaco, anche del sindaco, no, ma infatti che è qua, che, al quale diamo la parola, sindaco, però ecco. quando la vicepresidente dice la scuola, certo, non ha fallito, no, perché ma perché se no parla solo la vicepresidente, molto semplicemente il sindaco era in dovere di intervenire perché è affidatario di quei giovani. Il sindaco è intervenuto come, mi consentiate la parola, genitore di quei ragazzi. Io mi sono permesso di dire quello che pensavo perché questi ragazzi avevano bisogno di qualcuno che potesse parlare anche per loro, ok? Io credo che fosse doveroso questo intervento da parte mia. Dopodiché, giusto per chiudere il quadro, siccome io apprezzo molto il lavoro che fanno i miei servizi sociali, devo dire che abbiamo fatto 3 proposte concrete per togliere i ragazzi da scuola fino al giorno degli esami, quindi non sarebbero più stati all'interno della scuola, avrebbero fatto un percorso in altre associazioni. Ah, quindi avete risposto alla scuola? Ma assolutamente, io ho fatto delle proposte concrete che volevano evitare un'espulsione. Io ho scritto una lettera prima che il Consiglio d'Istituto si riunisse dicendo: cari signori, secondo me non è la soluzione giusta l'espulsione, ragionateci bene, perché questi ragazzi potrebbero avere problemi in futuro, quelli che ho già elencato, vi facciamo queste proposte. Tra parentesi, i ragazzi, uno dei due, anche al pomeriggio era seguito. Qui stiamo facendo passare che l'amministrazione comunale se ne è fregata. Ricordo che tutte le azioni che fanno i servizi sociali quando un ente è affidato sono, tra virgolette, vagliate, concordate, sì, o comunque seguono quello che il tribunale dell'affido gli ha detto. Certo, quindi certo. Non è che noi non abbiamo fatto ma è chiaro, niente. Ma poi questa, se mi permettete, è una polemica, se volete, un po' più, non dico un po' più locale, ma insomma, no, una polemica però, anche di carte bollate sulla quale noi non abbiamo elementi per decidere. Però certo, resta rimane fatto, la storia, noi abbiamo tentato però con equilibrio anche di parole, di toni, eccetera, di descrivere una storia che però resta un esempio di fallimento. Questo lasciatemelo dire, perché è così. Allora, ci fermiamo qui per oggi, caro Oscar. Tu oggi pomeriggio e domani mattina sei veramente in onda. Attenti al demonio. Saluto il più grande social network del mondo, grande raccordo anulare.